Siamo al telefono con Max Collini e posso dire che è un grande onore, grazie mille di essere qua con noi a Radio Città Fucico. Ciao a tutti, per quelli che non lo sapessero, sono quello che parla nelle canzoni degli Offlaga Disco Pax. Giustamente. E gli Offlaga Disco Pax tornano dopo 10 anni di stop, diciamo, per celebrare il ventennale di Socialismo Tascabile, prove tecniche di trasmissione, uscito nel 2005. E cosa avete fatto nel frattempo in questi ultimi 10 anni? Allora, in realtà gli anni più o meno sono 11, noi ci siamo sciolti al momento in cui è scomparso Enrico Fontanelli, che ci ha lasciati nel 2014. Allora, cosa ho fatto io? Io in questi 10 anni ho fatto tantissime cose, il riassunto sarebbe molto complicato. Ho sviluppato un progetto musicale con Yuka Reverberi dei Giardini di Miro, con cui abbiamo fatto un disco, un EP, tantissimi concerti tra il 2014 e il 2017. E poi ho invece iniziato una piccola carriera da uomo solitario, monologhista, teatrale, cose del genere, in cui ho fatto 2 tour, uno era Hai paura dell'Indy e l'altro era di recente Storie di antifascismo senza retorica, ho pubblicato anche un libro, il mio primo libro dopo tanti anni che mi dicevano perché non scrivi un libro, davvero l'ho scritto, l'ho pubblicato People, cioè la casa editrice di Giuseppe Civati, e vi giuro, ho fatto talmente tante cose che adesso molte me le dimentico. Ho fatto delle collaborazioni con Massimo Zamboni dei CCCP, ho studiato concerti. Ho fatto forse più cose nei 10 anni dopo lo scioglimento di Offlaga che nei 10 anni con Offlaga. E cose molto diverse tra loro, tra l'altro. Daniele gestisce a Reggio Emilia un piccolo negozio di dischi che si chiama Tosi Dischi, un negozio storico. E poi anche lui ha il suo progetto Felpa, anche Daniele si è tenuto impegnato. Diciamo che non ci siamo mai fatti mancare niente. Ecco, questi progetti, chiamiamoli paralleli se vogliamo, continuano o adesso che sono, diciamo, per il momento tornati gli Offlaga si fermano un po'? Ma in generale quando sei impegnato in un tour così complicato come la reunion degli Offlaga per i 20 anni di Socialismo Tascabile, anche volendo fare altro ti rimane poco tempo, quindi credo che il 2025 sarà dedicato quasi esclusivamente, salvo eccezioni estemporanee, al lavoro con gli Offlaga Disco Pax. Quello che sarà dopo non ve lo saprei dire, perché anche se, cioè, non ci crederete, ma gli Offlaga Disco Pax non hanno mai avuto i piani quinquennali, ci sarebbe piaciuto, ma in realtà abbiamo sempre cavalcato, surfato sull'onda degli eventi, del momento, della situazione, per cui non siamo mai stati bravi a programmare e quindi stiamo programmando a distanza di, in questo momento già programmare un tour a distanza di mesi ed eventualmente anche un tour estivo è già un record per gli Offlaga Disco Pax storici. Per quello che riguarda la mia vita personale non ho mai programmato niente e sono finito su un palco a 38 anni, direi che anche io, insomma, ho regalato emozioni a me stesso. Ecco, a proposito di programmare, voi avevate un tour programmato per marzo-aprile, il tour che partirà effettivamente il 7 marzo, con alcune date. Le date poi si sono quadruplicate perché a Milano avete dovuto raddoppiare, a Roma pure, a Bologna avete addirittura 4 date tutte sold out e quasi tutto il tour è sold out, che toccherà Roma, Napoli, Molfetta, Treviso, Perugia, insomma un po' tutta Italia. Vi aspettavate una cosa del genere? Sinceramente? Sì. Ma manco per il caso. Ah. Cioè, no. Noi non avevamo idea, nel senso che tu chiudi un progetto anche per un motivo talmente terribile, tragico, che comunque ti segna quella roba lì, no? Lo riapri dopo tanti anni, non hai idea di cosa è successo nel frattempo nella realtà delle cose. Io ho fatto tante cose, ma erano cose più piccole, quindi io la dimensione degli Offlaga oggi non avevo la minima idea di quale potesse essere. Ma interessava tornare a suonare le nostre canzoni che mi sono mancate in questi 10 anni, era quella la motivazione, e i 20 anni del tour e i 20 anni del disco erano la scusa migliore che abbiamo trovato per andare di nuovo a suonare le nostre canzoni, che mancavano a me, mancavano a Daniele e abbiamo scoperto mancavano anche un sacco di altra gente, altrimenti non si spiega questa risposta. Però mi avessero detto che avremmo fatto un tour che invece di 9 date diventavano 16, che avevamo richieste per triplicare, a Roma ne facciamo 2 ma avremmo potuto tranquillamente farne 3 o 4, Bologna pensavamo di farne 1, massimo 2, ne facciamo 4, al Locomotive, tutte già sold out da settimane, è una roba che non potevo immaginare. Facciamo 2 date anche a Torino, non l'hai citata ma lo dico io, è tutto abbastanza surreale perché non sono i numeri che avevamo noi 10 o 15 anni fa, sono numeri molto superiori e mi spiego questa cosa fino a un certo punto. Però non vorrei che pensaste che me ne stia lamentando. Non me ne sto lamentando, sono molto contento. Ecco, diciamo che forse c'è una voglia, un bisogno di delle vostre canzoni che sono indubbiamente politiche in un momento politico difficile, diciamo, soprattutto per una certa parte. Può essere anche questo uno dei motivi, secondo te? Io credo che ci sia un problema di contenuti generali nella musica italiana, e quando i contenuti latitano e quando le cose nuove non riescono a parlare a tutte le generazioni, e questo spiega magari anche il fenomeno Lucio Corsi, cioè non è che Lucio abbia inventato niente, semplicemente è una roba vera, è una roba che arriva, e in un panorama così, come dire, omogeneo e anche un po' triste e con pochissimi contenuti, anche uno come Lucio Corsi, che tutto sommato aveva una dimensione piccola, diventa un gigante. Io penso che lui sia bravissimo, non sto criticando Lucio Corsi, penso che sia un autore fantastico, però appunto in un panorama in cui non c'è nulla che non sia io, me stesso, me medesimo, la mia fidanzata, la mia ex, e al limite il contorno della propria crew, chiamo così, come dicono i moderni, e non c'è una società, non c'è una vita sociale, non c'è un'idea collettiva, è ovvio che chi la pensa diversamente, che magari è un po' più adulto, si trova un po', come dire, a non sapere neanche bene cosa ascoltare a volte, e probabilmente la risposta così positiva, adesso faccio un esempio più grosso, al tour dei CCCP l'anno scorso, o in sedicesimo del tour degli Uplaga di quest'anno, sono, come dire, una risposta a quella roba lì, ma il terreno di poi una scienza esatta, io non sono un sociologo, non so spiegarmela bene, però probabilmente c'è anche un'aria che tira politica, sociale, ideologica, che qualcuno sta cercando in qualche modo un ombrello dove ripararsi, perché io personalmente, ma penso anche voi, sono molto preoccupato. Direi di sì, quindi cerchiamo risposte un po' nella musica, chiamiamola datata, tra l'altro appunto 20 anni, no? Socialismo tascabile in un mondo che, per quanto vicino dal punto di vista temporale, perché 20 anni non sono tanti, ma è un mondo molto diverso da quello di oggi. Quindi cosa rimane di quella narrazione, di quell'album nel 2025? Allora, il problema reale è che quell'album parlava sostanzialmente di elaborare una sconfitta ideologica e culturale, perché era la mia analisi, adesso ripeto col senno di poi, non è che per l'epoca l'abbia pensato come concept, però il trade union dei racconti del disco parlavano sostanzialmente appunto della fine di un'utopia e del mondo che stava cambiando. Io sono arrivato alla caduta del muro di Berlino a 22 anni e nel momento in cui diventavo adulto, giovane adulto, tutti i miei riferimenti identitari crollavano, e per me è stato complicato elaborare quel lutto. E ci ho messo tanto tempo. Socialismo tascabile è uscito, io invece di anni avevo 35, quindi ero già un adulto, non un giovane adulto, ma probabilmente dentro quel disco è finita tutta l'elaborazione che ho fatto di me stesso rispetto al cambiamento epocale di panorama, come dicevo, ideologico e culturale, che mi è toccato nella mia vita adulta. E quindi c'erano già dei riferimenti al passato. Però in quel momento noi venivamo dal berlusconismo più estremo, stiamo parlando del 2005, di 20 anni fa, e già c'era un rotolamento a destra molto molto significativo di questo paese, molto molto significativo. Io però 20 anni fa non avrei mai detto, nel momento che noi uscivamo con quel disco in piena epopea berlusconiana, anche se in quell'attimo lì ci furono anche altre questioni, adesso non vorrei fare lo storico che poi magari dico delle cose inesatte, però io 20 anni fa, come vi stavo dicendo, non avrei mai pensato che tutto sommato morire democristiano non era poi l'opzione peggiore. Mentre oggi mi trovo a pensare che forse morire democristiano non è il peggiore dei mali. È un cambiamento di visione abbastanza, come dire, significativo. Io non sono quello che, non mi piace pensare di me stesso come uno che a 20 anni era incendiario e a 60 diventa pompiere. Non è questo il punto. Il punto è che i cambiamenti sono così epocali e così preoccupanti che tutto sommato mi tengo Mattarella sperando che sia eterno. Vedete un po' voi come sono messo. Credo che siamo d'accordo abbastanza tutti. Togliamo un attimo da parte le questioni più politiche, magari anche un po' più sociali del disco e della reunion degli Uplaga Disco Pax. Per i fortunati che si sono accaparrati i biglietti di queste date tutte sold out praticamente ormai del tour. Cosa devono aspettarsi dal ritorno degli Offlaga Disco Pax e da un concerto degli Offlaga Disco Pax? Bellissima domanda, non vorrei alimentare le vostre aspettative, che vorrei ridimensionare immediatamente. In questo momento il mio problema è riuscire a proporre al pubblico, tra l'altro con una certa ansia da prestazione, sono tanti anni che non le suoniamo e non affrontiamo il nostro pubblico da molti anni appunto, è di riuscire a presentare le nostre canzoni, le canzoni di Socialismo Tascabile e magari anche qualche altra canzone di altri album in un vestito appunto presentabile e dignitoso, perché Enrico non è più con noi ed era un po' il maestro orchestra degli Offlaga e quindi noi abbiamo preso un altro musicista, ci siamo trovati molto bene con lui, si chiama Mattia Ferrarini, stiamo rivestendo con la sua sensibilità tutte le parti che Enrico non potrà più fare purtroppo, però la cosa fondamentale per noi in questo momento è proporre un concerto in cui quelle canzoni vengano presentate nel miglior modo possibile. Non abbiamo altri obiettivi che potervi proporre dal vivo il meglio possibile di quelle canzoni. Quindi le stiamo provando praticamente quasi tutte le sere, stiamo cercando un'amalgama tra di noi e siamo in una fase di preparazione atletica in cui spero che il risultato finale sia almeno dignitoso. L'unico obiettivo che ho in questo momento è quello. Non aspettatevi altro che una versione dignitosa e accettabile di quelle canzoni. Perfetto, ma siamo sicuri che saranno una figata di concerto, anche perché poi il pubblico che viene conoscerà a menadito, presumo, le canzoni, quindi sarà una festa collettiva probabilmente. Sì, spero di sì, ma non sono sicurissimo, perché ci sono persone di nuova generazione che magari gli Offlaga non hanno fatto il tempo a vederli dal vivo perché erano troppo giovani, perché li hanno scoperti dopo, perché erano distratti da altre cose, e quindi mi aspetto che arrivi anche un pubblico che gli Offlaga dal vivo non li ha mai visti e che ha scoperto gli Offlaga Disco Pax solo dopo la fine del progetto, e quindi mi aspetto anche un pubblico che in qualche modo conosca sì i nostri brani, ma non così a memoria. Abbiamo anche fatto una scelta politica di tenere il prezzo del biglietto, e questo ovviamente incide anche sul nostro cachet, scusate l'argomento prosaico, perché abbiamo deciso di tenere i biglietti del tour a 20 euro. Questa cosa ha permesso a un sacco di gente di poterselo comprare, perché non è una spesa, non è una spesa particolarmente significativa, diciamo. È una scelta politica nostra. Un prezzo molto popolare e direi che il pubblico ha risposto alla grande. E il tour, questo tour di marzo-aprile, si chiude il 18 aprile appunto. C'è un avete già in programma delle altre date che possiamo già lanciare per i prossimi mesi, per l'estate? Allora, posso dire che faremo anche il tour estivo, questa è la novità di questi giorni. E in particolare una data del tour estivo è già stata annunciata, quindi per tutti quelli che non hanno trovato un biglietto per il Locomotive, nelle quattro date che abbiamo al Locomotive, che sono l'8 marzo, il 18 marzo, il 4 aprile, l'8 aprile, noi siamo al Locomotive, ma è tutto sold out, completamente sold out, direbbe Tommaso Paradiso. Esatto. E invece faremo il 14 giugno, che è un sabato, faremo un concerto a Ferrara sotto le stelle, nel cortile del castello. Le prevendite sono già aperte, quindi chi non ce l'ha fatta a prendere il biglietto per Locomotive, se fa un piccolo viaggio di una quarantina di chilometri, può venirci a vedere a Ferrara, un festival bellissimo, una location stupenda, quindi vi aspettiamo a Ferrara il 14 giugno. Perfetto, Max, io ti ringrazio infinitamente per la disponibilità e per le belle parole che ci hai regalato. Ti chiedo se per salutarci vuoi scegliere una canzone da Socialismo Tascabile, direi, per darci appuntamento a questi concerti o all'estate con gli Offlaga Disco Pax. Allora, sceglierei Cinnamon, con la C, Cinnamon, perché è l'unico testo degli Offlaga Disco Pax che non ho scritto io. E siccome lo trovo il miglior testo degli Offlaga, lo posso dire, l'ho scritto io, vi propongo Cinnamon, anche perché Robespierre la conoscete già a memoria. Credo proprio di sì. Perfetto, grazie mille Max e insomma, buona vita. Ciao a tutti, ciao a tutte.